Perfetto. Allora, raccontaci un po', insomma, parte del convoglio si è recato all'ospedale di Gaza, giusto dopo il Sì, ritorno da. siamo andati in 5 persone, non di più, perché comunque non è che era molto una visita, diciamo così, e per non disturbare più che altro, insomma, perché la gente è un medico, il medico che comunque abbiamo conosciuto questi giorni, il quale già mi aveva detto che i feriti erano stati 63 e i morti 2. Ora, quelli che abbiamo visto lì sono stati dislocati in vari ospedali. Uno degli ospedali che però non abbiamo visitato era lì vicino al punto della manifestazione, quindi probabilmente molti sono stati portati lì. Invece i più gravi sono stati portati a quest'altro ospedale di Gaza, che è quello più grande. La maggior parte dei feriti, cioè tutti quelli che abbiamo visto, sono ragazzi dai 14 ai 17, guarda, non so manco se arrivano ai 18 anni. C'è stato un giornalista, no, che è stato colpito con una scheggia alla spina dorsale perché ha perso le gambe, e gli altri erano colpiti tutti quanti alle gambe, in vari punti però. Un ragazzo aveva tutte e due le gambe ferite, era femorale, e poi abbiamo visto anche il ragazzetto che è morto. E la cosa assurda è che aveva un colpo alla testa e uno al cuore, il che vuol dire che comunque sia il secondo colpo, qualunque sia stato il primo, era già morto, e il secondo era stato del tutto gratuito, insomma, del tutto per infierire, tutto là. Senti, le due persone morte, vabbè, questo è un ragazzo molto giovane, quanti anni? 14 anni, E l'altro? 14 anni il ragazzo che è morto. E l'altro? L'altro non ne sappiamo tanto, perché non ce l'ha saputo dire neanche il medico, non si sa bene, perché non è stato portato lì, quindi non abbiamo potuto sapere quest'altra cosa. Senti, una delle visite che il convoglio, che Corum ha fatto, è stata proprio una visita agli ospedali, perché comunque alla fine, per la carenza di elettricità, per la carenza di, pur sempre, Striscia di Gaza, l'embargo, quindi immagino che anche l'approvvigionamento per quanto riguarda le medicine, sia molto scarso. Ti va, insomma, di raccontarci un po', come è stata la tua impressione anche nell'incontrare il personale medico? Guarda, la visita sinceramente è stata abbastanza breve e concisa qua, perché comunque siamo abbastanza scortati, diciamo, e la tempistica è determinata molto da loro. Quindi abbiamo avuto un incontro con questo ospedale centrale di Gaza, prima ci hanno fatto appunto sedere e ci hanno spiegato un po' di 5, 6, 10 minuti di colloquio, tutti seduti così con questi due o tre medici, che appunto ci dicevano: sì, qui manca tutto, mancano medicine, mancano strumenti, manca la luce a volte, quindi questa è la situazione che già conoscete. Poi ci ha detto che chiaramente hanno usato il fosforo bianco, loro non sanno di cosa si trattasse, e che hanno ringraziato, che dice che molti laboratori, comunque italiani, hanno confermato l'uso di queste sostanze, mentre qualcun altro appunto lo smentiva. E niente, vabbè, quindi dopo una specie di una breve introduzione alla situazione, ci hanno fatto visitare sempre però in 10 persone, di cui io sono privilegiato perché sono infermiera, quindi mi hanno fatto entrare, però gli altri sono rimasti tutti quanti fuori, giustamente pure direi, perché stavamo apposta in mezzo alle persone che stavano male, quindi non era proprio tipo un museo. Quindi niente, siamo andati in questo pronto soccorso in cui sono chiaramente tutti insieme, donne, uomini, bambini, che arriva. Le strutture delle stanze in questo ospedale sono abbastanza fatiscenti, cioè, si arrangiano un po' con gli strumenti che hanno. E niente, abbiamo visto il pronto soccorso e la terapia intensiva fondamentalmente. Ci siamo rimasti pure poco, perché in terapia intensiva stavano operando su un ragazzo che stava abbastanza male, nel senso non so neanche quanto abbia resistito dopo la nostra visita. E quindi niente, siamo dovuti andare via, perché comunque il dottore poi l'avevano chiamato, quello che stava parlando con noi, la situazione è stata abbastanza così rapida. Poi lì nel nostro principale di Gaza, poi invece abbiamo visitato l'altra struttura, questa Jabalia, che era quella struttura dove andava anche Vittorio, che però vabbè, comunque Vittorio andava in entrambi, nel senso che comunque lui lavorava sulle ambulanze, per cui era di passaggio in entrambi i posti. E lì la struttura è molto meglio, insomma, sta messa bene, cioè, rispetto sempre nelle dovute, chiaramente con le condizioni in cui è, comunque è nuova, sono delle stanze abbastanza nuove. È dal 93 mi hanno detto che c'è questa struttura, in cui vengono però trattati, diciamo, le cure secondarie e terziarie, per lo più per le persone bisognose. E quindi in questa fascia poi questa bisogna viene fatto per lo più gratuitamente, almeno il 40-50% delle prestazioni sono gratuite, però appunto pure secondarie e terziarie, perché per le primarie vengono comunque mandati nell'ospedale centrale. E in questa struttura ci sono degli ambulatori, c'è un piano in cui ci sono tutti gli ambulatori, quindi visita e poi tornano a casa, c'è un reparto di dei sargeri, quindi un post chirurgico, post operatorio, una terapia intensiva, diciamo, però proprio non tanto terapia intensiva, proprio due o tre sale operatorie, questo è, ma raga, proprio immaginatevi una stanzetta con un lettino, anche se comunque la struttura è molto meno fatiscente, anzi direi che proprio stava messa molto bene rispetto a quello che era stato lo scenario dell'ospedale generale. E mi hanno detto che ci lavorano all'incirca 80 persone, tra tutti compresi, infermieri, medici e amministrativi. E abbiamo dato i farmaci che abbiamo portato da Roma, è stato carino, hanno gradito, hanno detto che sicuramente saranno molto utili, anche se chiaramente erano pochi rispetto a quello che gli può servire, insomma, a loro. E niente, tutti conoscevano questo, è partito che tutti lo conoscevano, Vittorio, loro c'erano due ambulanze là di fuori, quindi ha detto che spesso lui vi arrivava, stava là quando portava i feriti e poi ripartiva, insomma. Diciamo che questo lavoro che molte volte fanno gli internazionali, perché come ricordiamo questo succede anche in Cisgiordania, le autoambulanze sono spesso oggetto dei colpi da parte dell'esercito israeliano, durante Piombo Fuso si diceva addirittura che le autoambulanze, no, Israele diceva no, coprono i combattenti dentro le loro, tutta una scusa, insomma, invece poi per uccidere hanno ucciso diversi conducenti di autoambulanze, e nonché diversi colpi sono stati, per cui Vittorio faceva questo proprio in quanto internazionale, anche per tutelare i palestinesi. Sì, anzi, io ho saputo che una delle volte che Vittorio stava sull'ambulanza, lo hanno chiamato sul telefono suo, gli hanno detto o scendi o distruggiamo l'ambulanza con te dentro, e lui si è sempre comunque rifiutato di scendere. E poi sulla stessa ambulanza hanno ucciso l'autista che stava con Vittorio. Va bene, senti, io insomma ti ringrazio tantissimo, immagino insomma che sia anche un po' difficile raccontare questa esperienza in questi momenti, e per cui apprezziamo insomma chi sta a Roma, apprezziamo tantissimo insomma lo sforzo anche che tutto Corum sta facendo. Ora, di sì. Ora abbiamo un altro appuntamento con questo medico che è molto disponibile, veramente una bella persona, e non so, ci dobbiamo mettere d'accordo per sempre questo gruppo di infermieri e più o meno insomma simili, che dobbiamo incontrarci domani mattina e ci farà vedere, non so, un altro punto dove lui opera, una sorta di ambulatori credo che siano, però non ho capito bene, e poi dovremmo andare a visitare anche il progetto Gazzelle che si occupa dei bambini mutilati, eccetera, insomma, comunque è abbastanza pediatrico, insomma, quindi poi domani vedremo altro, questo è quanto, sempre di brutto.